Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. L'ultimo venerdì è uscito una pagina sul quotidiano Il Giornale interessante, è un pezzo di Pedro Hermosida, l'inutile carrozzone della censura. Si domanda l'articolista se ancora abbia senso mantenere una commissione che si occupi della censura. Se ne occupa il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, c'è una direzione generale per il cinema composta da 9 persone che ogni giorno vanno a lavorare, analizzano 500 domande di film, ma pare che nell'ultimo anno, tutto il 2011, soltanto 6 film sono beccati la dicitura è vietata ai minori di 18 anni. Si domanda giustamente se in un momento di tagli, di revisioni, valga ancora la pena tenere in piedi dei signori che ogni giorno si guardano dei film dove in effetti, essendo mutato notevolmente la soglia del pudore o dei fatti censurabili, è molto difficile che incorrano in qualche pellicola a cui debbano porre il divieto. Mi viene da pensare che esiste più turpiloquio e più esposizione di nudità lubrica nel Festival di Sanremo che nelle commedie che venivano censurate negli anni 60 e 70. Di fronte a questo ci poniamo oggi un problema, una domanda. Cosa significa oggi censurare? Perché un film dovrebbe essere censurato? Qual è il livello di attenzione che viene posto nei confronti della censura? Noi siamo classicamente abituati, dalla commedia italiana, dall'ironizzare che c'è stato, a pensare dei signori integerrimi, almeno nell'apparenza, che interiormente appagati nella loro insaziabile smania voyeuristica, dove guardare ogni giorno un'infinità di pellicole dove appaiano le più incredibili lussure possibili e decidono poi sadicamente di tagliare, di censurare, di togliere, come nel nuovo Cinema Paradiso, che l'operatore mette da parte tutte le scene dei baci, hanno soltanto dei baci, ma in un cinema di provincia era il bacio già qualcosa censurabile. Nel cinemino parrocchiale dei Salesiani, quando andavo io, anche solo i 2 sanculotti di Franco e Ciccio avevano delle scene per cui il prete operatore ogni tanto metteva le mani davanti al proiettore per non farci vedere, non so, Franco e Ciccio che baciavano una damigella settecentesca o qualcosa del genere. Quindi, per farvi capire, oggi mi piacerebbe sapere cosa per voi valga la pena di essere censurato. L'avvento di internet, la diffusione della rete in tutte le famiglie italiane fa sì che con un facile click gratuito e accessibile, non cito il titolo ma che fa parte ormai dei bookmark di ogni essere umano vivente, si può vedere qualsiasi cosa oltre quello che noi pensavamo fosse censurabile negli anni passati. Per definire, pensare, riflettere su cosa secondo voi oggi meriti censura, secondo me nulla, a meno che ci siano delle pellicole con un forte contenuto istigatorio al delinquere, anche in questo sarebbe anche da vedere, da osservare, da valutare, facciamo una rapida quanto intensa rassegna su ciò che ha significato censura negli anni passati, per vedere e per illuminarci se mai oggi avesse ancora un senso avere dei signori che, chiusi nel riserbo del loro sacello in cui c'è il silenzio di un confessionale, guardano ogni giorno ciò da cui potrebbero liberarci come fardello pesante e gravoso per la nostra coscienza. Caro Ferrari, come va? Sai, ho una questione con la padrona di casa. La vinco io di sicuro. Fermo l'azione giudiziaria e la blocco. Verso 7.500 lire e la blocco. Mi basterebbe versare metà dell'importo. Mi occorrerebbero 2.000 lire. Tu stai sempre là di casa? Sì, sì, non mi muovo. La padrona di casa vorrebbe naturalmente buttarmi fuori. Anche oggi, capisci? 2.000 lire mi... Scusa, non vorrei perdere questo. Ciao Ferrari. Qua piacere. Partiamo subito con un esempio in cui la censura non ha nulla a che fare o che attenga minimamente alla sfera sessuale, che è, diciamo, il dominio che più facilmente uno pensa che sia censurabile. Oggi non c'è nulla che possa passare in un film di talmente scandaloso e osceno che non si possa vedere in internet, e non esiste più nemmeno la cinematografia pornografica. I cinema luci rosse hanno chiuso i loro battenti, spodestati, messi in mezzo alla strada da internet. Quindi, ahimè, la censura potrebbe entrare in zone diverse. Ad esempio, nel 1952, un film scritto e sceneggiato da Zavattini, diretto da Vittorio De Sica, Umberto D. fu censurato. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Cosa rodeva in Umberto D. al tempo? Qui ad essere scabrosa era la miseria di questo pensionato che deve barcamenarsi nel quotidiano e precipita sempre di più nell'indigenza ed è costretto a chiedere l'elemosina, poi ha un soprassalto di pudore e finge di osservare l'acqua che cade dal cielo, la pioggia, davanti a qualcuno che lo guarda. I panni sporchi si lavano in famiglia, diceva un delfino leggermente ingobbito di De Gasperi, all'epoca il giovane Giulio Andreotti, che appunto stigmatizzò il film, rendendolo di fatto poi invisibile fino agli anni 90. Io leggevo che fino agli anni 90 c'era il divieto ai minori, non poteva andare in televisione questo film, poi insomma si mossero gli intellettuali e si poteva accedere. Qui a scabroso era il pensiero, scabroso era l'attentato al buon senso comune, alla visione del sociale, ecco, questo era che indolenziva. Quindi è importante che... È sufficiente lo stigma iniziale, l'imprimato iniziale rispetto allo scandalo che potrebbe arrecare una pellicola, e se la trascina per tutta la sua esistenza. Sembra solamente incredibile che fino agli anni 90 Umberto D. venisse considerato qualcosa da non guardare, perché immagine miserrima di un paese che in realtà era nel momento della sua massima rinascita. Sì, però era allo stesso tempo era nella rinascita, ma aveva comunque ampie sacche di povertà, e queste non dovevano essere viste, dovevano essere nascoste. Era un po' un retaggio di quello che era il mincul pop ai tempi del fascismo. Mussolini in realtà detestava per esempio il cinema, anche se diceva che era l'arma più potente. Amava i cinegiornali in cui lo si vedeva tagliare il grano a torso nudo con l'adipe in vista. Però cercava di condizionare il cinema dei telefoni bianchi, appunto orientandolo a far vedere questi interni sempre edulcorati. Quando si aprirono gli esterni del neorealismo, qualcosa di scabroso entrò nell'immagine e destabilizzò il pensiero comune. Quindi mi sembra di leggere tra le righe che la censura è strumento da regime, non è strumento da democrazia. Sì. La democrazia non dovrebbe avere una commissione censura del cinema. Oggi l'apoteosi della democrazia, ovvero questo mercato diffuso in cui siamo, ha centrato tutti gli obiettivi che si proponeva la censura all'inizio, ovvero non c'è più la censura, c'è la censura del mercato stesso, cioè non si pongono più queste idee così forti. Beh, che vuoi censurare? Moccia, Muccino e Moretti, non c'è nulla da pervertire, non c'è niente, come dicevi tu, tutto è classificato in termini anche illuministico-pornografici su internet, quindi tu hai tutto il visibile anche scansionato per ogni piccola pervenzioncella, certo. È già pronta, è già servita anche in maniera razionale, appunto enciclopedica, e quindi non c'è più bisogno, non c'è più l'attesa, non c'è più il mistero verso lo sceno, ecco, lo sceno è in scena adesso. 800 24 00 24. Quale ricordo avete delle precedenti censure? E voi pensate che la censura sulle attività espressive artistiche, come appunto il cinema, abbia ancora un senso? E se non ha un senso, perché c'è ancora una commissione che si occupa di censura? Ma che buono! Sono cattivo, cattivissimo, sono una bestia. Ma si è tentato perfino di salvarmi al rischio della sua vita, come un padre. Ah sì? E tu perché credi che l'abbia fatto? Perché ci aveva un po' di compassione per me. Tu? Compassione, nelle condizioni in cui mi trovo. Lo sai perché ho compassione io? Per me? Perché se tu t'ammazzi a me mi cacciano via dal corpo e divento un disoccupato. Sì, un disoccupato. Divento uno di quelli che vanno per la città con il cartello sopra scritto pane e lavoro e ce ne pigliano in testa. Ecco cosa divento io. Uno di quelli che ce ne pigliano in testa. Non più uno di quelli che le dà. Speravo che almeno lei ce l'avesse un po' di compassione per me. Sai che carriera farei se avessi compassione di tutti i delinquenti? Allora, se il mondo è brutto come dice lei, c'ho ragione io che non ci voglio più stare. Oddio, forse c'hai ragione, ma nelle tue condizioni non puoi. Metteresti me nei guai, senza contare poi il ragazzino che hai in corpo. E allora? Quindi Sansonna, anche Totò, un comico, è stato colpito dalla scure della censura. Siamo nel 55, c'è il massinoide Scelba, Mario Scelba all'interno, quindi siamo in pieno stato di polizia. Non si può parlare, non si può far vestire i panni di un poliziotto a Totò, che ormai non è più una marionetta, cioè ha perso quelle caratteristiche marionetta nel 55 e diventa sempre più umanizzato, mostra sempre più il volto segnato della povertà, appunto vive in una borgata, e tutto questo è già scandaloso. Più facile fargli fare il ladro. Sì. Anche quello però creerà, anche guardia e ladri, sarà scandaloso, perché alla fine si veste da prete. Il fatto che faccia amicizia con la guardia era inaccettabile, con la guardia Aldo Fabrizi è inaccettabile, non, delinquente è stata la parte delinquente, la guardia deve rimanere nel suo, nella legalità ufficiale e dorata, insomma. Quindi è un tempo in cui si osteggiavano le rappresentazioni che in qualche maniera mettessero in crisi l'ordine costituito, anche se era satira, anche se era divertimento. Poi questo è un poliziotto proto-pasoliniano, perché appunto racconta, dice se io perdo il posto poi passo dalla parte di quelli che le manganellate le prendono da quelli come me, quindi anticipa di gran lunga il discorso di Pasolini. E poi c'era anche Carolina, che era questo personaggio... La Ferrero, che appunto vuole suicidarsi, perché è ragazza madre di una famiglia bigottissima. Mi hai detto niente. Vuole suicidarsi appunto col bambino in grembo, e lui gli dice il suicidio è un lusso che non ci si può permettere se si è poveri, no? Insomma, poi venivano guardati con occhio troppo benevolo i comunisti, che aiutano loro quando cadono giù con la scarpata per la macchina, addirittura vengono cambiati i loro cori in sede di censura, cioè, è tremendo tutto questo. Poi c'è una scena in cui lui fa una retata, Totò per prostitute, apre una macchina, oh mi scusi eccellenza, dice a un'eminenza fuori scena, ecco, anche questo è tutto puntualmente censurato, subì una sottintendendo l'idea che gli onorevoli andassero a puttane, cosa che naturalmente non è mai accaduta nel nostro paese. Infatti, cioè, perché insinuare così il falso? Roberto, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. No, dicevo che avrei trovato un lavoro per questa commissione, nel senso che potrebbe occuparsi di programmi televisivi, inserendo oltre ai bollini che mettono per la visione o meno dei minori, anche un'indicazione sul livello culturale del programma che si sta per guardare. Ma questo servirebbe solo per il servizio pubblico, che ha un dovere da contratto di servizio di fare cultura. Gli altri editori televisivi sono editori che stanno sul mercato, se lo fanno molto meglio, va a loro norma, non è per loro un obbligo. Però dice, come indicazione alle famiglie, dice, qua c'è un contenuto culturale interessante. Sì, cioè alla fine del programma avrete arricchito di un po' la vostra conoscenza rispetto ad altri che assolutamente lasciano totalmente vuoti e al punto in cui si era quando si è iniziato a guardare. Quindi lei sposterebbe, diciamo, l'attenzione della commissione ministeriale sulla televisione. Non è una cattiva idea, tutto sommato, perché nessuno ci pensa. Non si può pretendere dallo stesso editore che faccia il salumaio, che dice che il vino è cattivo o il salame non è di giornata. È chiaro, è una buona idea questa che dice lei. Francesco. Sì, buongiorno. Sono d'accordo con la persona che ha parlato prima di me, condivido totalmente il discorso sul fatto che parlare, porre la censura sul sesso in questa società non ha ormai più senso, piuttosto sposterei l'attenzione sul discorso violenza, perché anche durante le ore del giorno... Non ha più senso in assoluto per le persone adulte maggiorenni, per i minori ancora... Infatti, a quello volevo arrivare, alcune, anche in ore... Io sono tacciato di essere libertino e anima persa, figuri, detto da me che senso ha, ma onestamente ci sono approcci che devono essere graduali, poi una volta che uno è grande fa quel che gli pare, ma non sempre ci sono strumenti nemmeno nelle famiglie per gestire certe situazioni, e quindi è normale che un minimo di attenzione sui minori ci dovrebbe essere, secondo me. Infatti, ecco, solo per citare un esempio, mi capita facendo zapping di vedere su Rai 4, io pago regolarmente il canone, quindi non ce l'ho con la Rai, mi capita però di vedere anche in ore in cui sicuramente i minori sono davanti alla televisione, vedere dei film di una violenza incredibile, dove con gente che cava gli occhi col coltello alla vittima, cose del genere, insomma. Mi sembra veramente che qui qualcosa bisognerebbe fare, insomma. È il solito discorso, la televisione ha delle regole, bene o male, anche molto ipocrite, che un cantante che va a Sanremo quando scocca la mezzanotte come Cenerentola deve andarsene perché è minorenne, cose del genere. E in effetti sul vero codice di salvaguardia dei minori non ci fa caso nessuno. Molto in mano alle famiglie, in realtà la regola dovrebbe essere che non dovrebbe essere mai lasciato un minorenne o una persona sprovvista di strumenti ancora maturi di analisi da solo davanti alla televisione. Poi quello che dice è vero, sa, è anche il contesto e anche, diciamo, il tipo di supporto della famiglia. Guardare un film dell'orrore assieme ai figli può essere anche una cosa molto divertente, si sdrammatizza, sono film chiaramente splatter, esistono delle situazioni di vera angoscia che possono creare degli incubi, possono creare delle situazioni difficili, è sempre molto difficile, può essere anche un'operazione culturale far vedere un film dell'orrore, alcuni film dell'orrore hanno un loro valore culturale e simbolico, però il minore non può essere lasciato solo, questo è un dato di fatto. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti. E niente, io credo che appunto la commissione di censura purtroppo ha il diritto di esistere, ribadisco purtroppo, perché esiste sempre purtroppo un comune senso del pudore. Ma scusi, ringraziamo Dio che esiste, se non ci fosse il senso del pudore non esisterebbe l'attizzamento, mi scusi. Ma no, io non la penso completamente diverso, non la penso così, perché comunque per quale motivo deve esistere un comune senso del pudore? Intanto è una cosa labile, non è una cosa fissa. Per il piacere di violarlo, penso, immagino, almeno, non lo so, questo è il mio punto di vista. Per dare un senso di trasgressione a violarlo, se no che gusto ci sarebbe? Ecco, allora quel ci manda mai una giustificazione. Ecco. Certo. Comunque, insomma, finché c'è il comune senso del pudore, ci sono delle regole e quindi la commissione purtroppo... Lei dice, siccome non siamo in una società apertamente spudorata, quindi ancora ci sono delle regole anche riguardo il pudore, quindi lei rimane l'idea che la censura debba tenere soprattutto alla zona, diciamo, dell'esplicitazione di atti sessuali. Sì, ma come giustamente ci ricorda Intonti, la censura in Italia nel corso dei decenni ha bloccato soprattutto il pensiero, film per motivi ideologici che attentavano non tanto ai centimetri di pelle esibiti o meno, ma a qualcosa di più profondo e strutturale della visione. Ecco, non voglio anticipare, per far capire, un pezzo della tua scaletta, però a questo punto, visto che abbiamo detto, tiriamo fuori la scena di Ultimo Tango a Parigi. La scena chiacchieratissima di Ultimo Tango a Parigi è una scena che insieme a un forte senso di trasgressione sessuale. Marlon Brando sodomizza la Schneider usando un panetto di burro della loro colazione Optimus. Sì, dalla loro colazione mattutina. Questo creò fantasie in tutta l'Italia. Per settimane le massaie andavano arrossendo a fare la spesa, doppi sensi sul burro. Però in realtà, mentre faceva questo atto, aveva una sorta di mantra in cui demoliva il senso sacrale della famiglia. Ma cosa fai? Voglio farti un discorso sulla famiglia. Quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me. No, no, no! Ripeti. È una scena forte, non la vogliamo sottoporre la mattina, soprattutto perché parte del pubblico è intento nel soffritto, quindi non vorremmo creare confusioni. Però definiamo e contestualizziamo questo film, che è stato un reale, totale, radicale esempio di censura. Sì, è stato bandito, è stato mandato al rogo le copie, il corpo del reato per l'appunto è diventato oggetto di incendio. Fu proprio bruciato, non esistevano copie. Sì, c'erano problemi grossi, però il problema strutturale è qui, che la metafora bertolucciana è molto, come diceva un mio vecchio amico, è un D'Annunzio tirato al burro, diciamo così, solo il carisma... No, il film non era niente di che, diciamo la verità, il valore era perché fu censurato, mi ricordo, erano nel 72, quindi eravamo negli anni 70, eravamo già in un periodo in cui il paese sembrava risvegliarsi con una sorta di autonomia e libertà di pensiero, però Ultimo Tango non passava. Solo il carisma titanico di Brando poteva permettere di reggere senza creare appunto... Anche quello della Schneider, devo dire che aveva la sua forza, pace all'anima sua e Dio l'abbia in gloria, però anche lei aveva la sua forza. Sì, aveva quest'area molto trasgressiva, e appunto questo appartamento parigino, le musiche di Gatto Barbieri... No, il film era una chiavica, diciamo la verità, una cosa orrenda, era, diciamo, passò la storia in quanto censurato, da difendere in quanto oggetto... Il vero originale ce l'abbiamo noi, che dopo esibiremo, faremo riascoltare qual è stato quel vero originale, il vero film, il capostipite rispetto a Ultimo Tango a Parigi. Insomma. Andiamo avanti, Federico. Buongiorno, salve. Io sono assolutamente come lei contro la censura, soprattutto in questo periodo storico in cui internet ci dà accesso a tutto quanto. Tutto rientrerebbe dalla finestra, quello che si butta dalla porta. Esatto, anzi. L'unica cosa su cui ho capito di pensare sono stati questi film sui delinquenti. Ho detto una cosa giusta, perché c'è stato l'altro giorno il fatto dei ragazzini che andavano a fare le rapine e si guardavano il film con la vita di Vallanzasca. Un romanzo criminale. Delle serie TV. Allora, perlomeno, naturalmente non è che si può escludere. Non si può dire, non vediamo il film di Vallanzasca. Però i finanziamenti che vengono dati, pubblici, per il cinema, questi, ecco, li eviterei per questi tipi di film. Ragioniamo su questo, scusi un attimo, perché è un tema importante. Un film che racconta l'epopea di un famoso delinquente, è un film, i miei figli hanno visto molto volentieri, che sono giovanissimi, non sanno cosa sia Vallanzasca. È stato un film non eccelso, però che riproduceva bene i tempi, gli anni in cui si produsse Vallanzasca, al di là della storia in sé, anzi è stata anche molto edulcorata perché hanno evitato di far vedere lo squartamento di Turatello, che era la cosa più interessante in realtà di tutta la vicenda. Gli anni 70-80 erano ben rappresentati, quindi sentiva bene il clima e si meravigliavano i ragazzi di pensare che in quegli anni potesse esistere una così spregiudicata azione criminale. L'attenzione giusta è questa. Certo, se viene visto come una sorta di manuale del perfetto rapinatore è un altro punto di vista, ma il censore non può prendersi la responsabilità di evitare il rischio in assoluto che qualcuno possa farne un uso distorto. Sanson. Io la schizofrenia che trovo nell'immagine in italiano la appunto su romanzo criminale, sia il film che la serie, no? Che mostra la banda della Magliana, che andando a vedere le foto anche dei superstiti, a parte che è ancora innervata nel tessuto italiano fortemente, non è passato. Sì, adesso diventiamo le facili ironie. Ieri su Facebook, ma tutto scritto ti portiamo le arance perché hanno arrestato il famoso Nicoletti, tuo cugino, cioè i suoi nomi, cioè, non siamo parenti, se anche lo fossimo io non rinnego la parentela, fatti suoi. A scorrere le foto segnaletiche sono tutti degli aborti, dei facoceri, dei volti mostruosi e nel film e nella serie vengono estetizzati, dei fighettoni e quindi diventano pronti per la moda vintage, anche quindi alimentano un merchandising continuo, quindi un paese che da un lato piange sulle tombe di Falcone e Borsellino e dall'altro altro poi appunto celebra come eroi giovanili. È il limite che hanno fatto al film di Placido, le vittime di Vallanzasca hanno detto come vi permettete, fate passare quasi. Vallanzasca è anche un po' diverso perché tutto sommato era bello, era un mito estetico anche, quindi sì, ma lì appare quasi una sorta di Robin Hood, quasi una sorta di vittima della società, il solito discorso tagliato con l'accetta insomma da Placido, ma questo è un altro tipo di discorso. Invece è curioso come appunto per poter vendere la delinquenza come oggetto di merchandising si alimenti appunto questo discorso estetico. Dobbiamo fermarci un istante, diamo la linea alle informazioni della borsa, continueremo tra poco. 800 24 00 24. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Sei veramente tutto? T'ho promesso? Sì, sì. Io tutto. No! Ti farò fare l'amore su materassi di piuma. No! Guarda, te l'ho medaglia alla locanda. Tu ti dato tutta tua. Stiamo per sempre. No. Puoi avermi come vorrai. Avrai tutte le donne che ti pare. No. Ma allora che vuoi? Ma che vuoi? Dimmelo che vuoi. Che vuoi? Borra. L'ultimo tango ancora, dicessi mio amore, voglio ballar con te. 800 24 00 24, tanto per farvi capire che il clima drammatico e censorio costrittivo di Ultimo Tango Parigi esplose giocoso, giocondo e censurabile in Ultimo Tango a Zagarolo. Sanson. Questo era il film matrice, in realtà, anche se venne dopo per un errore cronologico, ma in realtà era questo il film vero, quello parigino, era la sciagurata parodia, insomma. Questo qui il finale conclude con la risata da squalo di Franco Franchi, che ha una moglie che è ancora in carne ed ossa, anzi molta carne e ossa, che lo vessava, l'amante Marty Beswick, bellissima, che lo vessava. Lui ha questa riscossa finale, vestito come Marlon Brando nella scena del film, e appunto esige burro, non si sa per quali fini. Anche questo film ebbe qualche problema, perché appare addirittura Franco Franchi nudo nella vasca, quindi anche questo film paradossalmente ebbe qualche problemino. Fu l'unico film di Franco Franchi che dovette appunto passare al vaglio della censura e del limite ai per i minori. Rispetto alla domanda che aveva fatto, l'ipotesi dell'ascoltatore sui film che raccontano storie di criminali famosi, ricordiamo che ha citato quanto Scarface sia un eroe per i camorristi che li guardano, però sai, a me divertono, sono film che in effetti hanno il loro senso. È un po' difficile pensare sia diseducativo, perché se entriamo nel termine che un'espressione artistica o dell'ingegno creativo debba essere anche educativa in assoluto sempre, bambinizziamo la società, facciamo una società per bambini. Scarface è una summa teologica degli anni Ottanta, cioè l'ascesa di questo appunto parvenu dalla malavita che arriva a costruirsi questa villa. Appunto Saviano in Gomorra racconta di come i camorristi dessero il VHS ai loro architetti, cioè voglio la casa come Scarface, cioè vogliono proprio esattamente, infatti hanno ricostruito esattamente nell'entroterra casertano obbrobri simili come a Miami. C'è stato il sequestro di una delle ville di Casa Monica qua a Roma, che è una delle grandi famiglie anche zingaresche, criminali, sembrava la casa di Scarface, era grandi bagni pompieri, Peiani, colonne, marmi, è esattamente quello. Sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io sarò brevissimo. Io volevo intervenire in questi termini, nel senso che io ritengo opportuna una regolamentazione su internet, sarà una cosa banale di cui avrete già parlato, però dell'accesso indiscriminato a qualsiasi tipo di... parlo soprattutto per i giovani, per i minorenni che hanno un accesso ormai totale a qualsiasi tipo di informazione, soprattutto sessuale, ed è totalmente, e nessuno fa niente per evitare. La prima persona dovrebbe fare qualcosa è il genitore, scusi. Lei ha perfettamente ragione, però non esiste, cioè non c'è la possibilità che il genitore stia 24, possa controllare 24 ore l'accesso a internet. Basta semplicemente chiudere e inchiavardare gli strumenti di accesso e il ragazzo non c'entra. Sì, però come staccare la rete da casa non è una cosa complicatissima, onestamente. Sì, però come, allora io ho 36 anni, non ne ho 60, e quando ero giovane io si andava dall'amico che aveva il giornaletto particolare e si trovava al modo, e penso che anche adesso in tre minuti siamo tutti sopravvissuti, ci sarà calata un po' la vista, ma siamo diventati grandi lo stesso. Assolutamente, però lei mi può confermare che le informazioni a cui potevamo accedere noi sono ben diverse da quelle. Sì, però guardi, questo è un po' fuori tema, però le rispondo molto volentieri perché è un tema che conosco e mi ha appassionato. Internet cambia completamente la dimensione della fruizione di un oggetto di qualunque tipo, emotivo, concretamente legato alla nostra realtà, rappresentativo, artistico, osceno. Internet è la caratteristica di internet essere questo, dentro ci sia tutto. Esistono due tracce. Una è la traccia, secondo me, dell'educazione all'uso di internet. Oggi i ragazzi sanno esattamente di cosa si tratta, ci guardano dall'alto in basso, è un po' difficile prenderli in giro. Occorre un approccio molto più precoce alla gestione di questo materiale, che è un approccio da un certo punto di vista giustamente censore da parte dei genitori, che un minorenne abbia accesso libero a internet, ma che non è tanto l'oscenità che si presenta, ma è la possibilità di interconnessione con altri esseri umani di cui non conosciamo l'identità e le intenzioni. Quindi un minorenne in realtà dovrebbe avere una attenta scuola in famiglia dell'accesso a internet, e un accesso controllato e misurato finché non è nell'età di poter gestire se stesso e in autonomia anche la propria possibilità di accedere non tanto alle immagini ma ai contatti con altre persone. Esistono dei sistemi elettronici, delle babysitter elettroniche che non permettono l'accesso a alcuni siti. Suo figlio non può andare su YouPorn se lei mette un particolare filtro, ma il ragazzino, essendo scafato, imparerà immediatamente dagli amici più scafati come farlo. Quindi occorre fare ancora una fatica ulteriore e tramandare al figlio per quanto possibile alcuni strumenti, insegnargli magari era un pochino più precoce quali sono i casi della vita, quali sono le maniere giuste, errate o abnormi di rappresentare anche la sessualità. Questo è il mio punto di vista. Nadia. Buongiorno. Mi piaceva un'attenta scuola il discorso di controllare i ragazzi, ma se si controllano i ragazzi bisognerebbe spingere tutto. Non bisognerebbe mai avere la televisione accesa, perché lì i limiti della decenza gli adolescenti non lo vedono più. Se vediamo gli ultimi 10-15 anni, quello che i ragazzi hanno visto in televisione, non occorre andare al cinema, il cinema devo sceglierlo, devo avere i soldi, devo chiedere a mamma di uscire in quel momento e capire dove sta andando e quale cinema sta andando e che film si vede. Ma basta accendere solo la televisione, adesso c'è una cantante solamente che vedo che canta, si chiama Adele, posso dire il nome, non so. Beh, se è, è una fantastica cantante inglese, e ci aiuta per la prima volta i genitori a dire forse sii avanti, se hai la voce, anche se ti vesti retro, sei qualcuno. Vabbè, ma è un prodigio della natura, sta parlando di qualcosa che in questo momento rappresenta un miracolo, vabbè, ma... Ma perché, che vuol dire? Perché, perché Adele non si spoglia, è il modello, però no, è un artista. No, no, no, le spiego. Il modello purtroppo che hanno i ragazzi, basta entrare su Facebook di una quindicenne, l'80% delle volte vediamo uno scimmiottamento di star che loro vedono nel cinema, nella televisione, oppure comunque star, diciamo, della musica. Ma che vedono anche nella società, che vedono guardando le madri, che vedono guardando le persone per strada, che vedono e respirano nell'aria. Sì, però non è che si può mettere delle barriere impermeabili attorno ai nostri figli. Bisogna far capire, il tempo che si vive è questo. Non si può vivere nella nostalgia di tempi migliori, anche perché, Nadia, diciamoci la verità, non esistono i tempi felici. Lei parla di tempi in cui non si vedevano le persone scollacciate per strada, ma c'era un'infinità di altre oscene situazioni in cui potevano capitare i minorenni. Quindi non esiste l'età dell'oro, esiste la capacità di gestire la propria epoca. Però vorrei chiudere qui, se no andiamo avanti a parlare di televisione, di internet, che è un altro argomento. Noi parliamo di una commissione censura, e guardate, conferma quello che stiamo pensando, in un momento come questo in cui le attenzioni rispetto ai messaggi tra virgolette pericolosi non vengono più dal cinema, ma vengono da internet, dalla televisione, da tutti gli altri mezzi di informazione, comunicazione e diffusione del pensiero. C'è questo problema enorme, appunto, della censura. Gran parte dei film di Ferreri sono vietati ai minori di 18 anni. La Grande Bouffe, la grande abbuffata, che è stato un successo enorme da tutti i punti di vista. Mi viene da ridere, perché tu pensi che nel paese dei ladri come il nostro, perché il nostro era un paese dei ladri, notoriamente, saltano fuori. Mi hanno portato in tribunale coi carabinieri per la Peregina. La Peregina, coi carabinieri. E un'altra volta per la grande abbuffata col corpo del reato. Che è bello, perché sempre da ridere mi dice: dov'è il corpo del reato? E il corpo del reato è il FIMA, hai capito? È il corpo del reato. E mi hanno portato in galera in un mondo. Sembra di parlare di epoche distanti, lontanissime dalla nostra realtà. Vedi, oggi le mamme e papà si preoccupano per le oscenità che si vedono in internet, per la cattiva maestra televisione, tutte cose reali, ma che loro stessi hanno difficoltà a gestire, ne sentono l'angoscia, ne sentono la paura, non si sentono in un atteggiamento di ironica superiorità rispetto a certi modelli, quindi vorrebbero la censura. Ma in realtà parliamo di Ferreri, parliamo della grande abbuffata, la Grande Bouffe, un film censurato. Oggi lo potrei far vedere, non lo so, a un bambino dentro la culla. Sì, però è violento quello che arriva alla testa, il pensiero di Ferreri, giustamente violento. Sì, poi è un suicidio collettivo, in realtà è un suicidio collettivo quel film. Quindi... Eticamente violento, lui parla appunto di un schopenhaueriamente del il sospiro della specie, l'accoppiamento come qualcosa di fisiologico, di l'amore, quando uno dice amore a un altro, insomma sta solo sospirando la specie che vuole continuare a riprodursi. E poi attentava alla morale comune, anche nella Peregina racconta di questa Marina Vradì trionfante, mistress paciosa, insomma, che sentiamone un breve assaggio, così capiamo qual è il contesto. Qui le uova devono fare il miracolo, te lo dico io, altrimenti con tutta la buona volontà va a finire male. Altro che sto. Qualcosa che non va? No, per carità, va tutto benissimo, non mi posso lamentare, sono tutti così carini con me, la suocera, insomma, zia Mafalda. Regina è un amore. E allora? Solo che non si rende conto che io ho 40 anni. Come cercate di avere un figlio il più presto? Ma se non facciamo altro, te l'ho già detto. Lascia le uova. Un bambino risolverebbe molte cose. Finite di essere in due. Diventate tre persone. Sposa amante. Sposa madre. Sposa sorella. Capisci? Dai, vieni. Ecco, in questa trilogia cosa c'è che dà fastidio all'ordine morale costituito? A parte che il direttore spirituale che sta parlando, appunto, che deve benedire queste uova ricostituenti, qui altro che shame, qui c'è Tognazzi che incarna il quarantenne metafisico italiano che ha una piccola azienda, che è ossessionato dalle donne, che mostra anche questa ipertensione continua verso la ricerca del femminile. Si trova davanti al Marina Vladì, che è una sorta di sfinge con questi occhi da panterona, e che si concederà solo dopo il matrimonio. Lui cerca di ottenere, è la preda che non ottiene, quindi lo costringe a sposarla. Una volta sposato, però, lo distrugge come un fuco di sesso per ottenere il figlio. Ottenuto il figlio, il fuco deve morire. Morirà in uno sgabuzzino per fare posto al bambino nella stanza più grande. Quindi questo era questo che andava censurato, questo attentato, questo mostrare l'ipocrisia di certe istituzioni, mostrare appunto i sentimenti sempre più svuotati di autenticità e sempre più istituzionalizzati. Il dover essere playboy, dover essere il maschio dominante. Soprattutto legare la passione sessuale soltanto alla necessità di procreazione. Terminato con l'operazione, non esiste più motivo perché possa esistere il desiderio, la passione, il sollazzo carnale. Melog, la realtà condivisa. I due uomini ci trascinarono all'interno, mentre uno dei due, guardandomi, diceva all'altro: ebbene, Goffredo, non ti avevo detto che era una bellezza? Ma sì, sì, sì, sì, sì, sì, hai perfettamente ragione. In verità è carina, un vero bijou. Così disse Goffredo, prendendomi affettuosamente sulle ginocchia e dandomi un bacio. Quanti anni hai, piccola? 7, signor professore. Perbacco, 50 anni meno di me. Disse il buon professore baciandomi di nuovo. Questo è uno dei film oggettivamente più terrificanti della storia del cinema italiano, che ho visto una volta e non rivedrò due volte. Le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, film che fa toccare con mano quello che è l'orrore totale, radicale. Un film però nella sua crudezza, nel suo insistere, che è considerato una sorta di testamento maledetto di Pasolini. Mi sembra che lui non lo vide mai montato. Terminò, poi adesso pare che c'è anche la polemica legata al fatto che poi sia stato ucciso da quelli che gli rubarono le pizze lo attirarono all'idroscalo per ucciderlo in massa, appunto. È ritornata in auge questa ipotesi, ma al di là di questo lui traspone il fantasma sadiano settecentesco di questo illuminismo che classifica le perversioni sessuali, scritto da Sade in galera, no? Dove c'è stato per 30 anni della sua vita, lo traspone nella Repubblica di Salò, quindi lo attualizza e mostra appunto queste... Io lo vedo come una grande anticipazione sia del reality, no? Con queste eccitazioni delle novellatrici che innescano perversioni, ma anche di YouPorn. Oggi ognuno appunto ha la sua Salò disponibile, e appunto fino alla fatica. Ci stanno telefonando molti ascoltatori insistendo su internet. Però questo è significativo. Noi parliamo di cinema, il cinema non è più visto come elemento né diseducatore né non portatore più, né portatore di dissoluzione, non esiste più nell'immaginario, non condiziona. È un'anemica parodia della televisione, della fiction televisiva, di questo eterno interno giorno a tutta luce che piatto, smarmellato, come dicono in Boris. Questo è, invece, questi film si incidevano fortemente nell'immaginario al punto da creare polemiche violentissime. Sentiamo Pasolini stesso che commenta quello che era il suo stato d'animo in quell'epoca. Il sadomasochismo è una categoria eterna dell'uomo, c'era il tempo del De Sazio, oggi eccetera eccetera, ma non è questo che mi importa. Cioè mi importa anche questo, ma il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, cioè una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto. Tutto il sesso di De Sazio, cioè il sadomasochismo di De Sazio, ha dunque una funzione ben specifica, ben chiara. Cioè quello che rappresenta... Ecco, vedi la differenza, lo spiega esattamente. Prende il clima sadomasochistico, di cui in parte probabilmente lui condivideva anche alcune sperimentazioni nella sua esperienza personale, e la applica come metafora al potere. Mostra veramente questa dissoluzione, questa cattiveria pura a se stessa, adamantina nel suo essere terrificante. Oggi se tu parli di sadomasochismo parli dei ragazzini che vanno a giocare e a impiccarsi nei garage, parli delle pratiche per casalinghe disperate, per geometri annoiati, parli di quello che dei negozi che ti vendono chiavistelli e moschettoni a prezzi stracciati assieme ai ricambi per le biciclette. Anche la trasgressione, che aveva un suo senso di dignità anche se nelle punte più estreme, è tolta dal suo aspetto culturale, è diventato un uso di massa. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi e ai suoi ospiti. Dunque, solo Sansone, non ci abbiamo altro. Passa il convento questo. Questo abbiamo. No, una precisazione, cioè, diciamo che la censura ora come ora penso che sia veramente impossibile a potersi fare, ma io sono una persona che ha 50 anni, è un bambino di 11 anni e naturalmente viene attratto tantissimo dai videogiochi. Il problema è che oggi di videogiochi ne vediamo di tutte le specie, di tutti i colori, specialmente quelli violenti. Però guardi, ora, posso dire una cosa, Massimo, siccome anch'io sono un cultore di figli videogiocanti, non c'è nessun prodotto dell'immaginario quanto il videogioco che abbia una indicazione precisa e specifica di ciò che contiene. Lei vedrà che al dietro da confezione del videogioco sono dei disegnini, dal disegnino lei capisce la percentuale di violenza, se c'è del sangue esplicito, se c'è del sesso, e in quello poi decide se darlo o no in mano a suo figlio. Ma infatti è proprio lì il punto. Il discorso a questo punto non è tanto più rivolto ai bambini, che comunque vengono attratti normalmente, ma al buon senso, quello che dico io, dei genitori. Che comunque passano delle informazioni spesso e volentieri sbagliate, e passano spesso e volentieri, pur di non giocare, come purtroppo oggigiorno la vita ci tiene legati al lavoro e tutto lo stress e quello che comporta, chiaramente spesso e volentieri il genitore non gioca più col bambino. Invece il videogioco è un grande strumento didattico, almeno agli inizi, fa un'avventura con suo figlio attraverso un videogioco. Ha un supporto formidabile per passare delle informazioni a suo figlio. I primi videogiochi vanno giocati in due con il padre, poi può andare anche per la sua strada e poi non si pressionerà più per vedere il sangue dello zombie o il cervello spappolato del nemico. Non è quello il problema, è riuscire a fargli capire quella dimensione metaforica in cui la realtà viene raccontata, a volte esasperata. Non è un modello, è semplicemente una maniera per giocare con la realtà, che è la base di ogni narrativa, è uno strumento di autonarrazione. Uno può imparare che il mondo si narra anche attraverso il videogioco. Anna. Buongiorno. C'ho il fiatone perché sono tornata indietro. Tornata indietro rispetto a cosa? È perché stavo uscendo, ho dato il numero di casa invece che il cellulare. Ah, quindi è rientrata. Certo. Vabbè. No, perché volevo ringraziarvi del tema, perché il tema per me è importantissimo, sia come persona, perché la sera vorrei rilassarmi, vedermi qualcosa in televisione e non c'è mai nulla da potersi distrarre. Beh, perché guardi, c'è violenza. Che non c'è mai nulla in televisione non si può dire. No, ce ne sono tantissimi. Fanta migliaia di canali, figuriamoci. Sì, tantissimi. Ma niente di interessante, ma c'è sempre violenza, sesso violento, perché non è interessante il comunque, sesso, scusi, no, il sesso non può essere no, io parlo come, soprattutto come nonna, perché ormai come mamma sono grande, no? E quindi come nonna i miei nipoti hanno 7 anni e non vedono la televisione perché cerchiamo di non fargliela vedere, giochiamo con loro, anche i genitori, noi nonni, eccetera, però capita che durante la preparazione del pranzo uno dice, beh, vabbè, vediamo, accendiamo qualcosa, non si può. Non si può mai. Lo sa, Anna, non si può fargli vedere quello che passa al convento. Bisogna fare una selezione. Bisogna. Allora, se la televisione è uno strumento per voi importante, per intrattenerli o per tenerli buoni, bisogna fare una scelta anche di budget. Ci si abbona dei canali specializzati per i ragazzi, ce ne sono talmente tanti. Esistono le web TV, adesso non voglio fare nomi o altro, ma si può fare una selezione per quello che vedano i ragazzi. Ci sono ottimi strumenti. Esistono dei fantastici prodotti video da poter prendere specializzati per i ragazzi. Certo, se li mette davanti alla prova del cuoco o amici, e non è forse la cosa migliore che possono vedere i suoi ragazzi. Giuseppe Sansonna, facciamo un passo avanti, stiamo per chiudere, manca un minuto, possiamo soltanto concludere, perché fra un minuto dobbiamo chiudere. Mi viene da pensare, noi avevamo preparato una scaletta che riprenderemo di un importante momento della nostra storia, però vedi qual è l'atteggiamento generale, è questo: esiste uno strumento che è molto più facile sentirsi buoni, perché non è censurabile da qualcuno al di sopra di noi, e noi non ci prendiamo, è uno strumento facilissimo da censurare, perché la televisione basta spegnerla, internet basta cambiare sul proprio browser la destinazione. In realtà non è che forse noi vogliamo dei censori. Sì, forse li vogliamo, comunque in ogni caso sono d'accordo con te, il genitore deve stare vicino al bambino e basta. Questa è la, e la società non è fatta solo da bambini. Certo, diciamo, no, poi gli adulti possono vedere tutto e avere delle reazioni critiche a tutto. Sarebbe bello se si evolvesse la società. Adesso si evolve, che ci stanno per segare. Ciao Sansonna, ci sentiamo domani.